Abbiamo raggiunto Cecilia Ceccarelli, una delle co-direttrici del festival Il Cinema Ritrovato, è arrivato quest'anno alla 37esima edizione che partirà dal 24 giugno. Intanto buongiorno. Grazie, buongiorno a voi. Innanzitutto, qual è il tema del festival di quest'anno? Allora, è molto difficile trovare un tema, i film sono oltre 400, diciamo che ci sono vari percorsi da seguire tra cinema più noto e cinema più di scoperta, proiezioni dalle 9 del mattino all'1 di notte. Abbiamo i cineconcerti in Piazza Maggiore, abbiamo le proiezioni a carbone nella piazzetta Pasolini, abbiamo al Cinema Europa il Pratello Pop con dei film meno classici, o come ha detto Gianluca in conferenza stampa, forse sono i nuovi classici, inclusa una rassegna horror. Abbiamo varie sezioni con dei grandi omaggi, quindi omaggi più monografici come quello alla Magnani, come Robert Mamoulian, come Kinusaga, l'autore è giapponese. E poi abbiamo dei percorsi invece che sono un po' i nostri capitoli soliti, quindi il cinema di 100 anni fa, il cinema del 1903, il cinema del 1923, quindi molti restauri, molti ospiti che abbiamo annunciato oggi, da Wim Wenders a Joe Dante a Nan Goldin, che ci accompagneranno in questi giorni, Guadagnino, adesso sicuramente ne dimentico qualcuno. Abbiamo rappresentate le cinematografie davvero di tutto il mondo, quindi dall'armena alla libanese alla siriana alla senegalese, ovviamente sto citando solo quelli, le cinematografie non occidentali, non europee, non classiche. Ezan Kosba, che è uno dei quattro co-direttori, che stamattina era in collegamento da Londra, ecco, lui un tema l'ha trovato, dice che uno dei temi più forti è proprio quello dello spostamento dei registi, degli artisti, degli autori all'interno della storia del cinema, quindi registi, autori esuli come può essere l'iraniano Bahram Beisai, o registi egiziani che lavorano in Siria, registi tedeschi che lavorano in Austria, in Slovacchia e in Ungheria, quindi spostamento in molti punti di vista che illuminano paesi non di appartenenza, a volte per delle cause come la guerra, come l'esilio, come l'olocausto, quindi, e che però riescono a fissare la complessità culturale, sì, la complessità che è quello che il cinema poi esprime meglio.